Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Innovazione e sostenibilità, tessuti smart e recupero degli scarti di produzione. Due delle grandi tendenze del mondo della moda diventano un concorso e un percorso di incubazione per startup per due grandi realtà del settore. Due realtà diverse, un colosso del retail e uno delle vendite online, che raccontano però nello stesso modo come la ricerca e l'innovazione al servizio del consumatore, le idee che intercettano le nuove istanze di consumo stiano profondamente cambiando non solo distribuzione e processi d'acquisto, ma anche design e produzione dei capi di abbigliamento. Il cibo esce dai locali e boom per lo street food nel nostro paese. Nel 2015, pensate, è nata un'impresa ambulante ogni ora. Infanzia e adolescenza sempre più protagoniste nel mondo dei consumi. A dettare le regole è la Skip Generation, che vi raccontiamo nel focus sui trend di questa settimana. C'è solo una persona che può interpretare quell'espressione. Sono fuori moda. Ho perso il fuoco. Tu sei Derek Zoolander. Hai fermato una stella da lancio con un'espressione. Flashami la bellissima Magnum. Fermo. No! Magnum, ora! Ah! Oh! Prendi questo! Oh! Tequila! Oh! Fashion. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Sway! La moda guarda avanti. Quale miglior citazione per una rivoluzione necessaria se non Zoolander 2? A proposito di sfilate, tra l'altro, la novità più significativa arriva da quelle di New York, dove la formula vedi e compra è già realtà per molti stilisti, che hanno scelto di mettere immediatamente in commercio alcuni dei capi presentati in passerella. Oggi però non parliamo di sfilate, ma di due iniziative che hanno a che fare con moda e innovazione. Partiamo da Wearable, un festival che si è appena tenuto a Parigi, una mostra, un'esposizione e un premio, un concorso per progetti digitali nella moda. A lanciarlo è Showroom Privé, tra le realtà leader in Europa per le vendite private online, con oltre 24 milioni di membri. Ci racconta tutto Virginia Hernandez. Abbiamo fatto il lancio a giugno dell'anno scorso del nostro progetto incubatrice Look Forward, con lo scopo di promuovere iniziative innovative che mirano a cambiare il modo di concepire, di distribuire e di consumare la moda. Wearable è nato da questa volontà di condividere i frutti di queste ricerche e le riflessioni sulla moda del futuro. Che cosa si è visto nella mostra? Dove si sta concentrando la moda del futuro? Nel disegno dei capi, nel tessuto, nella distribuzione o nei processi d'acquisto? Abbiamo visto tantissime novità su quello che sono i tessuti e diciamo il modo di fare i capi di moda e di alta moda. Quindi abbiamo visto tessuti intelligenti, tessuti che rispettano il mezzo ambiente, e abbiamo potuto vedere da un primo punto di vista quello che è stato lo sviluppo tecnologico rivolto alla moda. Una moda, vedo, deduco dai vincitori, che guarda anche all'intrattenimento, perché incontra ad esempio la musica, e poi una moda sempre più social, perché grazie ai tessuti, agli accorgimenti smart, entra in contatto con tutto l'universo digital. Assolutamente. Ad esempio, uno delle startup che hanno ricevuto, sono stati premiate, che tra l'altro è una startup italiana, Tio Torrenidi, hanno creato un bracciale e un guanto da indossare. Questo guanto ha 8 punti sensibili che diventano diverse note musicali. Il guanto e il bracciale sono collegati da un connettore magnetico sul lato esterno della mano. Quindi i sensori di movimento consentono alla persona che utilizza questo T8 di esprimersi attraverso la musica in un modo completamente innovativo, che consente diciamo di esprimere attraverso la musica e quello che si porta addosso i propri sentimenti. Vedo anche tra i premiati un dispositivo indossabile che utilizza la neuroscienza, perché la moda del futuro sarà una moda che guarda anche alle nostre emozioni. Queste nuove tecnologie che si stanno sviluppando cercano di includere anche il fattore sociale cioè quello che noi condividiamo. E da tutti saputo che ad esempio i social media o le opinioni degli influencer hanno un peso molto importante, un potere decisionale molto importante che aiuta al consumatore finale a prendere la decisione di acquisto. Quindi tutte queste nuove tecnologie si rivolgono anche al modo di esprimere i nostri sentimenti attraverso il fashion, perché alla fine la moda è anche un modo di esprimerci e di espressare e poter esprimere le nostre idee, diciamo. Addirittura una maglia che permette ai tifosi delle squadre di calcio di sentire quello che provano i giocatori in campo. Professionisti, sì, durante il gioco. Questo dispositivo indossabile funziona grazie a un mix di tre elementi, un hardware, un software e design di moda. E così il dispositivo offre un'esperienza integrata con le informazioni ricevute in tempo reale durante lo sviluppo della partita. Sono sicura che funzionerebbe tantissimo bene in Italia, che è un paese che comunque ha tantissime emozioni rivolte al calcio, quindi sono sicura che sarebbe un successo. We got three hours, we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. L'altra iniziativa di cui vi voglio parlare è il Global Change Award, il premio internazionale all'insegna della sostenibilità nella moda lanciato dalla H&M Conscious Foundation, l'organizzazione no profit che fa capo al colosso svedese dell'abbigliamento. Ne abbiamo parlato con Francesca Labbate dell'ufficio stampa di H&M Italia. È un'iniziativa appunto lanciata dalla nostra fondazione no profit, senza scopo di lucro. L'obiettivo alla base dell'iniziativa è quello di trovare soluzioni per creare una moda per una popolazione in costante aumento, riducendo però l'impatto sul pianeta e salvaguardando le risorse naturali. Si tratta della prima iniziativa di questo genere nell'industria della moda e l'Award selezionerà ogni anno 5 idee vincitrici, 5 idee allo stato embrionale, 5 innovazioni, con una donazione di 1 milione di euro che poi sarà divisa tra i vincitori. Quest'anno, la prima edizione, abbiamo ricevuto una risposta straordinaria che non ci aspettavamo, più di 2700 idee da 112 paesi e una giuria di esperti ha poi selezionato dei progetti che fossero davvero innovativi, ovvero che utilizzassero degli approcci tecnologici per rendere l'industria della moda più sostenibile, per esempio diminuendo i rifiuti dell'ambiente o utilizzando meno energia. In questo senso quindi possiamo dire che le idee vincitrici hanno tutto il potenziale per contribuire a un cambiamento verso un modello circolare dell'industria della moda. L'idea più votata quest'anno arriva da un team finlandese e ha a che fare con la conversione del cotone di scarto. Vuoi riassumercela brevemente? Sì, esatto, è l'idea che ha ricevuto la maggior parte dei voti, il 31% dei voti e un assegno di 300.000 euro. Questa tecnologia, che è in fase di sviluppo, dissolve gli scarti del cotone e permette che vengano riutilizzati come nuove materie prime nella produzione di nuovi tessuti senza comunque perdita di qualità e quindi chiude il cerchio sulle fibre tessili, non utilizzando nuove risorse e impattando meno sull'ambiente. Tra i premiati anche un progetto italiano. Un progetto italiano, tra l'altro, di due ragazze siciliane che sono partite proprio dagli agrumi rappresentativi della loro regione e hanno trovato questa soluzione per sfruttare gli scarti di produzione derivati dall'estrazione del succo degli agrumi e produrre un nuovo tipo di filato che sia sostenibile ma anche di alta qualità. Si vede dai premi assegnati, lo si vede da quest'ultimo che abbiamo citato, l'innovazione si sta concentrando molto nel riutilizzo dei materiali di scarto della produzione non solo tessile, nella direzione appunto, come hai già avuto modo di dire, di una moda, un'industria, un'economia circolare. Ecco, questo per voi quanto è importante? È molto importante. L'idea da cui è partita H&M e la nostra fondazione con questo progetto è proprio quello di passare a un approccio circolare che si distanzia da un antico modello di produzione lineare, take, make and waste, no? Prendi, produci e getta via, e invece è un modello in cui i prodotti e le risorse non hanno una sola vita. Significa chiudere il cerchio, come dicevo prima, utilizziamo questa terminologia close the loop per trovare soluzioni azioni in tutta la catena del valore e modificare appunto i metodi di progettazione, di produzione, di spedizione dei capi, ma anche delle modalità di acquisto, di utilizzo e di riciclo, cercando di sensibilizzare i consumatori. Le idee premiate non verranno solo finanziate, ma anche in qualche modo accompagnate, incubate dalla fondazione, così? Diciamo che adesso le idee riceveranno questo servizio di consulenza, saranno guidate per un anno con un servizio di formazione e di consulenza a cura della nostra fondazione e anche di altri partner tecnici, per poter essere poi sviluppate, perché proprio sono idee allo stato embrionale, quindi devono essere sviluppate. Dalle facce degli omini Lego personalizzate a un ponte meccano a grandezza naturale realizzato dagli studenti di ingegneria, fino alle nuove applicazioni retail per i makers. Il mondo dei grandi si ispira a quello dei piccoli grazie alla Skip Generation. Subito dopo la pausa c'è il focus sui trend, prima però aggiorniamo i numeri della Street Food Mania. Tra pochissimo, restate con noi. Essere e avere. Non sarei mai appagato cucinando per qualcun altro. Il food truck è una grande idea. È una tela vuota per i tuoi sogni. Te lo faccio portare qui. Ti ringrazio. Non prima di averlo visto. Che cosa vuoi fare? Ti farà ridere. Tony, Carlo ha preso un furgone per i tacos. Io entro nella vita della gente col mio mestiere. E l'adoro. E voglio dividerlo con te. Mai provata una salsiccia andouille? No. È piccante. Ti piace il piccante? No. Non è tanto piccante, andiamo. Sempre più cibo fuori da bar e ristoranti nelle nostre strade, sempre più ape car e food truck. È la street food mania, confermata dai dati dell'ANVA, l'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti di Confesercenti. Il coordinatore Adriano Ciolli. I nostri dati dicono che vi è una inversione di tendenza da un po' di tempo a questa parte, da un anno a questa parte più o meno, per quanto riguarda il settore alimentare. Vi è una ricerca, non del nuovo vorrei dire, ma del vecchio, cioè dello street food, dei prodotti tipici, del mangiare di strada, diciamo, da parte dei cittadini che si rivolgono agli ambulanti perché questo è più facile, è più semplice, è sempre più a portata di mano. E pertanto c'è la ricerca della trippa, della porchetta, delle panelle siciliane, della milza, di tutta una serie di prodotti. E ovviamente vi è anche, visto che vi è la domanda, vi è anche un aumento dell'offerta. Ecco, per cui questo è un dato che ci risulta dalle ultime analisi che stiamo facendo. Un'impresa ambulante ogni ora nel 2015, questo dicono i dati, ma le norme agevolano questa tipologia di imprese? Sì, le norme agevolano questa tipologia di imprese, perché mettere in piedi, non dal punto di vista fiscale o amministrativo, perché più o meno le spese sono le solite, ma dal punto di vista organizzativo, ci sono spese volentieri un minor costo di struttura, un minor costo di impresa, però vi è anche una richiesta del commercio su area pubblica che non è solo legata ai costi, perché viene da secoli. Nella piramide di Heope c'era disegnato un ambulante che vendeva il cassetto. Insomma, voglio dire, è che una cosa viene da molto lontano. Focus sui trend. I consumi guardano al mondo dell'infanzia e della preadolescenza, dai digital natives ai millennials, passando per la generazione Z. Il loro universo di riferimento, le loro abitudini di vita e di consumo, le loro dinamiche di gioco contagiano anche l'offerta di prodotti e servizi destinati al mondo degli adulti. I ricercatori di Future Concept Lab la chiamano Skip Generation, e allora ce la facciamo spiegare, raccontare da Sabrina Donzelli. Ciao Sabrina, bentrovata. Ciao a te e un saluto a tutti quanti. Perché Skip Generation? A cosa si rifà questa vostra definizione? La definizione Skip Generation nasce e si alimenta attraverso la nostra analisi dei target generazionali che popolano la contemporaneità e che in effetti dimostrano una rinnovata capacità di influenzare tutte le altre generazioni in una dimensione di reciprocità. Le diverse generazioni sono infatti sempre più caratterizzate da una forte pulsione alla mobilità, alla flessibilità, all'esplorazione e quindi a quei salti paradigmatici che stanno cambiando la struttura delle società avanzate, e il termine skip rende bene l'idea, ecco, sinteticamente e anche con chiarezza quasi onomatopeica, potremmo dire. L'elemento di novità è che il fenomeno non riguarda più solo le nuove generazioni, cosiddetti nativi digitali, ma per ragioni diverse investe con modalità originali, inaspettate, anche le generazioni più adulte, da qui la metafora del salto che abbiamo usato per definire skip generation. Ecco, allora passiamo ai casi che hai selezionato per noi. Vorrei partire con i pupazzi Lego, un aggiornamento di pupazzi Lego personalizzati da Funky 3D Faces, un sito e un progetto nato dalla società inglese Elab 3D. Che cosa rende possibile? Possibile avere la propria testa e la propria faccia stampate in 3D in piccolo formato e ad hoc per poter essere montato sul corpo degli omini Lego, quindi tutto l'immaginario e tutto il mondo dell'infanzia di più generazioni con questa componente nuova e personalizzata. E tutto ciò è possibile averlo, realizzarlo anche comodamente da casa alla cifra anche accessibile di 30 sterline, spedizione compresa. Una cosa bellissima, io sicuramente la voglio, la prenoto già. Sabrina, si guarda molto al patrimonio di creatività, di invenzione, di innovazione di questa generazione come fonte di ispirazione per artisti, ingegneri, ricercatori. Percorsi di formazione, ma anche percorsi di produzione e di condivisione. Ti porto due casi. Uno è un progetto che si chiama Inventors, di un artista, Dominic Wilcox, che ha voluto condividere il suo estro creativo con giovanissimi. Lavorando con le scuole, ha chiesto proprio ai più piccoli di immaginare, disegnare le loro idee, le loro invenzioni vere e proprie. Poi ha invitato i makers locali e vari produttori a selezionarne alcuni per trasformare queste idee, questi disegni in oggetti veri e propri. Quindi è stato un percorso di alcuni mesi che più recentemente, a fine gennaio, ha visto in una mostra con i disegni originali e le realizzazioni concrete delle invenzioni un momento di grande condivisione che, fra l'altro, anche a sorpresa degli organizzatori, ha attratto un pubblico molto ampio. Questa evidenza ci dimostra che i bambini e preadolescenti sono sempre più fonte di ispirazione, non solo in termini di narrazione, ma proprio anche di ispirazione per progetti innovativi e anche prodotti grandi, direi, non solo come volume, ma anche come complessità, processi, importanza, che troviamo nel secondo caso di un ponte realizzato a settembre con il Meccano, e un ponte di 30 metri assemblato interamente con il Meccano, intendo un'impresa da Guinness, 11.000 pezzi di metallo leggero, e un progetto che è stato frutto del lavoro degli studenti del terzo anno della facoltà di ingegneria civile di un'università locale, la Queen's University, anche qua in collaborazione con bambini delle scuole locali, quindi alto tasso di creatività e di apertura, ma anche grande rigore, grande scientificità. Li hai già citati tu nel progetto Inventors, molto sensibile a questo tema tutto il mondo dei makers, gli artigiani digitali alle prese con circuiti e stampanti 3D, un mondo che sta uscendo dai Fab Lab, così si chiamano, e sta andando verso il consumo, il retail. Anche in questo ambito direi che la creatività e l'energia vitale diventa una sfida progettuale e ricarica di idee per soluzioni anche nel consumo e anche nel retail. Le risposte si fanno sentire. Vediamo un pop-up a New York, aperto luglio scorso, di una startup dell'hardware, quindi anche l'hardware ha deciso di mostrare la propria presenza fisicamente in modo creativo. Si parla di Little Bits. Little Bits è un sistema di blocchi elettronici che permette il montaggio facile di circuiti e componenti che si incastrano tra loro magneticamente. Questo aspetto così molto tecnico, molto particolare, è stato esposto creativamente a Soho, New York, in un negozio di 200 metri quadrati con una progettazione anche ad hoc, diviso in tre sezioni, un'area demo, una parte per la vendita del taglio, ma anche un laboratorio. Come sempre tutti i riferimenti e le immagini sulla nostra pagina Facebook. Sabrina, abbiamo spazio per un'ultima segnalazione. Un'ultima segnalazione è ancora un riferimento e salto fra il mondo dell'infanzia e il mondo adulto, un libro che molti, che genitori credo conoscano, Visit Town, la città immaginaria creata da Richard Scarry, che è stato di ispirazione per un altro illustratore americano per l'infanzia, Tony Ruth, che invece della Busy Town ha immaginato una Business Town, domandandosi quali sarebbero i personaggi con i mestieri tipici della New Economy. E quindi questo artista, l'illustratore, ha aggiornato i personaggi intenti a svolgere mestieri come conversation manager o ghost blogger o il profeta digitale o l'esperto di circuiti o il guru. Sicuramente, ecco, questo incrocio non soltanto divertente ci fa pensare anche come questi salti e incroci di generazione vengono incoraggiati in una dimensione che coltiva l'esplorazione critica. Sicuramente questo libro era anche sottile e critico verso alcune dimensioni, ma fortemente creativa, sicuramente sottolineando ironicamente e in modo divertito certe risposte e certi punti di vista nuovi. Un aggiornamento divertente che crea un bellissimo ponte tra generazioni. Grazie a Sabrina Donzelli, alla prossima. Grazie a te. Il consumautore. Il mondo dei consumi è cambiato, tutti noi siamo diventati consumautori, ecco perché abbiamo voluto chiamare così questa rubrica, uno spazio prezioso di riflessione e di analisi con il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Oggi ci parli di tecnologia. Sì, di tecnologia, di nanotecnologia. Lo spunto è un libro che però è il racconto di un imprenditore italiano che si chiama Giulio Cesareo e che ha creato negli ultimi 10 anni un'azienda che sta diventando un punto di riferimento anche per il mondo delle nanotecnologie, che è Directa Plus. Il lavoro di Giulio Cesareo, come è scritto anche nel sottotitolo del libro, il libro si chiama Nano is Big e il sottotitolo è Verso il grafene per tutti. Questo elemento di democratizzazione della scienza, anche delle applicazioni più innovative della scienza, è una delle direzioni del prossimo futuro anche per l'impresa, per le aziende e per la comunicazione. Ecco, ricordiamo, il grafene è un po', come dire, il sacro graal della ricerca in questo momento, un materiale altamente innovativo, un conduttore, se non sbaglio, Francesco. Esattamente, la sperimentazione interessantissima di Cesareo, portata avanti tra l'altro insieme all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, diretta da Cingolani, e proprio nella direzione di rendere poi applicabile questa ricerca molto approfondita legata al grafene e alle sue proprietà straordinarie, perché è uno dei materiali più resistenti, più flessibili, insomma ha una serie davvero, come dicevi tu, il sacro graal, però ha prodotti di uso comune, no? Dalle ruote per le biciclette a piccoli oggetti per la casa, quindi è l'idea di una sperimentazione che esce dai laboratori ed entra nella vita quotidiana, e questo è molto interessante. Questo è un tratto comune alla ricerca tecnologica più avanzata, penso ad esempio, questo intendo, lo sguardo ai prodotti e all'uso quotidiano, dai gesti più semplici, penso a tutto il tema dell'intelligenza artificiale, anche lì si pensa molto alle applicazioni della vita di tutti i giorni. Sì, finalmente siamo usciti da questa idea che anche molto spaventava di una scienza che ci allontana dalla vita, no? Dalla vita quotidiana, e invece la scienza entra con tutte le sue applicazioni proprio nel nostro fare quotidiano, e il libro in questo caso è interessante perché è molto chiaro, racconta una storia, una sfida, ed è molto vicina, credo, alla possibilità di comprendere di ognuno di noi. E l'Italia, non ci stanchiamo di ripeterlo, anche in questi settori può giocare un ruolo di primo piano. Di primissimo piano, perché l'ingegno di Leonardo è ancora nel nostro DNA. Grazie Francesco. Grazie. Domenica prossima. Grazie a te Maria Luisa.